بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Che significa? Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. La lode appartiene ad Allah, il Signore dei mondi, il sommamente misericordioso, il clementissimo, il Re del giorno del giudizio. Te soltanto noi adoriamo e te soltanto noi invochiamo in soccorso. Mostraci la retta strada, la strada di coloro sui quali hai effuso la tua grazia, coloro che non sono oggetto d'ira e che non sono erranti. La recitazione della Suratul Fatiha è elemento essenziale di ognuna delle unità elementari che costituiscono il rito di adorazione